che ho portato la parola. Ciao, sono di te, coordinate Napoli da parte mia, Tulipano Emilio che ti sto salutando, capo! Facciamo venire da qua! Poi pagano 50 euro i ragazzi là, perché qua pagava qualcosa per passare da un taglio sul gas. Tutti affamati di soldi stanno, però mi ha visto la cazzo. CQ10, chi c'è qua? CQ10. Mini a pedivella, amici. Adesso ti sei alzato? No, veramente stavo studiando. Ho mollato un po' perché mia moglie mi deve suonare quando viene, quindi la devo aprire. Quindi mi sono tolto le cuffie e ho mollato adesso un po'. Bravo, bravo. A che punto siete col programma? Io sono arrivato più avanti del programma perché sto seguendo altre lezioni, capito? Sono arrivato all'RLC. Va bene, va bene. KK, guarda che andava il buona, l'aveva in cooperativa questa norma quando era un cruscone. Per un attimo il telefono. Stava suonando il telefono, Ferdinando scarica domani mattina, non l'abbiamo scaricato noi, voleva sapere. Ho detto è facile. Vabbè, domani mi richiamo. Ma io ascolto, ma non lo fate. E c'ha una cosa rotonda. Questa è la stessa, e c'è Pettino, stava là a cinghiale, la sedetta di voi. Sono sbratto, non mi brutto per gli altri gruppi. Chi è questo con questo bip brutto? Non parli, bello bello. E parla. CQ10. Attenzione, canale 10, cambio. Beh Gianni, mi senti? Eia, ti sento, ma non stavo uscendo, non capisco perché. Adesso già stai uscendo. Sì, adesso mi sento perché ho il parlascolto. Cosa già? Che ho il parlascolto, deve essere il TTT che stava, che aveva preso forse polvere, buh. Può darsi. Da parte mia. Al che te ne stai andando? Sì, sono da compagno di Marco. Ah, cappa. Va a trovare la sorellina. Ah, cava cava. Allora se ne stanno andando in quel di Bologna dove fanno le mortadelle. Eia, dove fanno le fiere, fanno tutto lì. Aia, saranno una fiera adesso. Cappa. Non è entrato nessuno, Natalia. Poco fa ho sentito a Claudio, però io stavo studiando. Due parole e via. Adesso ho bloccato un po' perché sono stanco. Sì, decenni. Ehi, hanno scalato di un mese, a ottobre lo fanno. Non ce n'è poi tanto di tempo, no? Con tutta la roba che c'è da studiare. Vabbè, meglio così, almeno hai più tempo, dai. Hai più tempo per farlo. No, se ti ho detto che hanno scalato di un mese, lo dovevano fare a novembre, invece lo fanno a ottobre. No, in avanti, pensavo che lo facessero dopo. No, no, a ottobre lo fanno, dici. Sì, già ce n'è di tempo. Non ti gridino, con tutta la roba che c'è da studiare, tranquillo che il tempo non è tanto. Ma tu sei studioso. Non mi ricordo più nulla, gara. Esagerato, gara. L'hai sempre fatta queste cose? Lo so, le ho sempre fatte, ma la memoria sta andando a farsi benedire. Vabbè, là. Ci sta. Ma poi ti fanno un paio di domande, non è che sia difficile adesso. Ma che cosa è successo? Sono passati 3 macchine della polizia. Poi se si sa che lui c'è in corso Vittorio Emanuele. Dice il 24 puoi venire di fronte a casa, fanno karaoke, c'è festa. Il 24 domani sera dalle 8 fino alle 23. Domani devo andare al corso. Allora niente festa, niente karaoke. Siamo rovinati, se tutto va bene. Gli hanno detto nessuno Natalino. No, solo Claudio, magari è in ascolto, non lo so. O forse c'è troppo caldo e se n'è andato. Da dove era? No, che adesso fa il giardiniere a quest'ora, va a innaffiare. Allora si è spostato. Già fatto. Milo mia, Perivella. Qualcuno, ciao. No, è innaffiato come lo fa. C'è un bel freschetto fuori, già si sta bene. Sono in viaggio, dai, sto andando al Ghero, Cla. Accompagnare? E accompagnare a Marco che sta andando a Bologna. Gappa. Però sì, che strada sei già? No, sto uscendo da Sassa, dai. Sono nella curva che porta verso la 131. Mi sto mettendo sulla 131 adesso. Gappa. E poi svincolo al Ghero. Ho visto che stanno rifacendo tutta la strada lì, un casino. Hai visto? Stanno mettendo a posto, fa schifo, troppi avvallamenti ci sono. Scappa, vanno ristretto tutto in una corsia. L'altro giorno sono dovuto andare a Quazzo, lì, non so se sai dove, a comprare il mangime per gli uccelli e ho dovuto fare un casino per entrare. Io so, mi servo anch'io lì. Come da Sandro? Da Sandro. E adesso c'ha diversi dipendenti. Non ci sono più quelli di prima, quello, come si chiama? Francesco è andato in pensione. E doveva andare in pensione già dall'anno scorso, poi è rimasto. È andato in pensione, già faceva sacrifici, da Oristano viaggiava. No, so che abitava fuori, ma no, cazzo, così lontano. Sì, lui aveva un negozio di animali a Oristano, poi l'ha chiuso e è andato a lavorare lì. Minchia, di sacrificio. Siamo qua. No, io mi dovevo uscire, invece... Niente, è uscita mia moglie con la figlia a fare la spesa, a fare altre compere, altre cose, andetti. Venite a una vicina così non mi rompete le palle. Tanto già sono attrezzati di te due, si hanno buttato un banco, la carta, vai a comprare, vai. Avanti di imbiudani, adesso te lo svuotano, guarda, c'hanno la sindrome da shopping le donne. E imbiudani, ambo e dagli i viveri a tutti e due. Messo sulle 4 corsie, Sassari Alghero. Oh, qua c'è l'antenna grande o quella piccola? No, io c'ho solo la grande, la piccola non ce l'ho più là. Vediamo se la dove ti sentiamo. Come era andata in corto, non sono riuscito più a metterla a posto. È già giunta la mondezza. Una volta si rovinano lì, vuol dire partita la bobina. È un casino. Vai Natali, che mi è arrivato. Che guardo il telefono, c'è che mia moglie. Scappa, andrà bene Mela. E dove sei arrivato già? Al primo ponte sono, arrivato al primo ponte sulla 4 corsie. Scappa, come sto arrivando io lì? Perché male mi senti? No, io già ti sento bene. Volevo sapere come sto uscendo io. Cava, già andrà bene. Già me la sto prendendo con calma perché tanto deve partire verso le 7, quindi posso prendermela con calma, dai. Salutami a Carlo, se lo vedi. Non lo vedo perché io non c'entro dentro, capito? Accompagna Marco e me ne vado e me ne ritorno indietro. Ah, K. Salutami a Marco. Capa, mi saluta lui. Ciao. Ciao Marco. Ciao. Allora mi ascolti lì Gianni? Pensavo di no. Ciao Natali. Ciao bello bello, buonasera. Buonasera. Chiara, Gianni sempre in tournée. Ah, già ti sento bene da qua ancora. Magari quando entri lì dopo, prima di tutto bella, magari ti perdo. Ehi, se ne hanno voglia di rimanere. Perché poi al ritorno sono solo, adesso sono in compagnia, al ritorno sono da solo. Chioppo. Avanti Natali. Io lo sento sempre, Gianni, non c'è problema, adesso vediamo fin dove arriviamo. Siete bene, se c'è una tenda buona già lo ascoltiamo. Gianni già c'è bene dalla mano. Perché sono qua, ma. Chiaro di qua. Vabbè, stai attento per il là, guarda la strada. Vabbè, so. Ui, e beh. Vabbè, tutti col bippio oramai siamo. Vabbè, quello si può anche sganciare. Dimmi una cosa, Graham. Ma da prima l'hai sentita prima, adesso ha migliorato o peggiorato la radio mia? No, la sento più chiusa, prima era più amplificata, più tonalitata, così educato. Niente. Vedi a vedere così adesso, ok? Adesso com'è? Vieni a vedere. La sento strana. Stamattina era più bella, era più amplificata, c'erano più toni alti. Cos'hai educato? Registrato. No, ho abbassato il coso il minimo a 3. Il microfono. A 3 ce l'ho qua adesso. Avanti break. A me mi arrivi con questi B da 3 a 5. La radio è buona, però è bassina. È vero che credo che stazione Gulliver lavora qua nel Gallipoli. Capo, dai. Franco Attila dalla provincia di Sassari, Sorso, città Sorso. C'ho anche altri amici qua, non so se ti ascoltano. Avanti Claudio. Sì, arriva, però non ho capito il suo nome, è Lecce, ho sentito Lecce ma non ho capito il nome. Buonasera Claudio Sparviero da Sassari, avanti. Sì, K positivo, a te Sparviero, a girare. Sì, Antonio Gulliver, buonasera, ben ascoltato. 5758, segnale per te qua a Sassari. Vai abbastanza bene, vediamo un po' se ascolti Natalino, poi ci abbiamo un collega in barra mobile direzione Alghero, vediamo un po', Natalino vai. Io l'ascolto l'amico di Lecce e non so se lui ascolta a me perché io purtroppo più di 4 watt non ho, quindi non so se arrivo lì a Lecce. Avanti l'amico. Sì, positivo, ascolto anche l'amico in barra M in Alghero, saluti 73, ripeto che Gulliver da Lecce, avanti. Hai sentito Antonio Natale con Natalino da Sassari? No, Gianni, tu lo senti Antonio da Lecce? Ma va a farlo venire avanti, non lo so, perché stavo facendo roba fuori dalla macchina. A me mi ha sentito, però non ho capito bene quello che stava dicendo, non arriva tanto bene il radio, capito? Il bassino di radio, il segnale è buono, ma la radio è bassa, vai Franco. Capa, sì, infatti si è abbassata anche la propagazione, adesso non lo ascolto più. Probabilmente stava parlando con una radio, un microfono normale, dai, stava parlando. Però era bella, quando mi è arrivata alta la modulazione, era bella la modulazione, abbastanza bella 5. Sì, quando ha parlato, sì. Gianni, dove sei arrivato? Sono al ponte, là, quel ponte che c'è, dove c'è il bivio per andare a Coso, a Portoferro. Vabbè, per andare all'aeroporto, non stai passando girando a destra all'aeroporto. Mi ascolta bene? Sì, sì, 5-5, senza problemi. Anch'io l'ascolto a Gianni, non so se gli arrivo io a Gianni, però io l'ho ascoltato anche adesso. Cosa sei, al bivio di Portoferro? Al bivio che c'è per andare a Coso, come si chiama, ma non a Portoferro, sto sbagliando io. Non mi viene il nome là. Santa Maria, Santa Maria della Palma. Ma se viene dall'aeroporto non ci arriva a Santa Maria della Palma, fa cosa quasi di disente. Anziché girare una volta finito lo schermetto veloce, anziché prendere la rampa per Romero, prende la rampa per Fertilia. Capito? Fertilia aeroporto, sarà lì quella rampa, lì sarà. Abbassa appena Claudio che ti sento troppo forte, non riesco a capire cosa dici. Addirittura, la Madonna che mi ha già detto, il microfono specchiometro 1, però. Ecco qua, adesso l'ho messo uno. Sì, sulla rampa per Fertilia, così è. Sì, adesso così ti ascolto meglio, dai, sei un bel forte lo stesso però, eh. Questa radio scrive già forte, già. Ce l'ho uno da una più 3B. Se lo metto a 0 non riesci. Ce l'ho uno, poi lo faccio a 2. Ma con che radio sì? Con Galaxy, con Saturn Echo e il Tarn più 3B. Cava gamba, va benissimo, dai. Ce l'ho uno adesso, lo faccio a 2. Se mi ha detto che era troppo forte. Allora ho messo uno, però se abbasso ancora non mi sentite più. Avanti, Natalie. E vediamo se mi sento, ho aumentato un po' il turner anch'io a vedere se mi ascolta, perché io lo ascolto a Gian. Già, l'hai sentito Natalie? Hanno parlato insieme, per forza. Ah, hanno parlato insieme. Gianni, l'hai sentito Natalie? Guarda se mi senti Gianni, dai, ho aumentato un po' il volume del turner, sto uscendo col turner più 3 io. Podcast, hai copiato? E c'era gente sotto. Ho detto che la radio è buona, Natalie. K, grazie del QRK, dai. E io niente, dai. Ebbene, non sei arrivato ancora nella sala vecchia di Tutto Bello? Eia, l'ho già sorpassata di brutto. Sono arrivato già alla rotatoria che porta all'aeroporto. Ehi, K, guarda che per fare prima, a posto di andare da lì, da Sella Mosca, c'è più avanti, verso Fertilia, verso Santa Maria. Sulla sinistra c'è un'altra strada che ti porta subito e arrivi più veloce. Sì, vabbè, dai. Io faccio la stessa, perché poi magari ti metto che ti si perdi l'aereo, lascia perdere. Faccio la stessa, magari. Ehi, capo. No, perché fai prima la lì, capito? Se no dall'altra parte devi fare tutto il giro. Ma perché non mi sta passando? Da cosa sta passando? La Sella Mosca? La Sella Mosca? Cazzo, ma una volta che finisci lo schermetto veloce, ok? C'è la rampa per Romero Alghero e poi c'è la rampa a destra per Fertilia, Alghero, aeroporto. Quando prendi quella rampa, dopo il bivio di Tortobella, si entra a sinistra e si è arrivato all'aeroporto. E allora chi si scende a Sella Mosca? Non si entra a Sella Mosca. Franco ha detto Sella Mosca, già lo sai, già andiamo all'aeroporto, se non è che è la prima volta che ci va. Da lì è facilissimo perché prendi la rampa per Alghero Fertilia e dopo Tortobella c'è il bivio per entrare all'aeroporto a sinistra. Ehi, ma Gianni, tu non hai detto che hai fatto la rotonda e poi sei andato verso Alghero? Ehi, tu vai all'aeroporto, vai giù e non passi di fronte al cancello di Sella Mosca lì. Ehi, quella è Sella Mosca. Ehi, quello c'hai ragione. Capito, Cla? Capito? Mi sono occupato male in Kiwi. Eppure io mi sono occupato male in Kiwi, però io pensavo dall'altra parte, dalla sala due mani, invece tu la Sella Mosca lo vedi dalla parte dell'aeroporto, già è vero, anche quello. Certo, poi c'è, al posto di andare e girare lì, e passare davanti a Sella Mosca, allora cosa fai? Vai, tiri dritto verso Santa Maria della Palma, poi trovi un distributore sulla destra, lì trovi, a pochi metri più avanti c'è un'altra via, sali lì a sinistra e ti porta dritto all'aeroporto e fai prima, ma molto veloce anche. di Milano c'è, c'è l'agriturismo. Mia sorella, mia nipote, già lo so, infatti io pensavo facesse quello, ci lui ha preso dall'altra parte, chiaramente vede le tenute di Selle Mosca, ma non passa davanti al, al cancello di Selle Mosca, cancello di Selle Mosca, l'ingresso nella strada dei due mari. Non è quella la strada dei due mari, la rotonda della strada dei due mari. Chi entra nei Chivi? Lui entra prima. No, prima proprio o meno. Cioè, poteva entrare, sì, vabbè, sì, poteva entrare dopo il fornitore a sinistra. Lì faceva prima, però, se uno conosce sempre quella, la strada è migliore prendere quella, per non perdersi. Sì, gira via il bici di una montagna, no, dove la strada dei due mari, su Mosca c'è la rampa per l'aeroporto. Capo, chi è che vuole entrare? Batti la Nicola Fischiato. Dunque, abbortando. E push. Va bene, non è niente. Avanti, Natalì. Un attimo che c'è un cuccicino al telefono. Ehi, Fruscia, è buono a far vedere i suoi forti. Ah, buono, arrivi in Dalla Grandriga. Dove sei arrivato già? Già, arrivi sempre, vai, Fra. Sì, l'ho sentito anche io, l'ho sentito. Strano che a Gianni lo sentiamo e a Corso, ma adesso non ricordo neanche il nome, non lo sentiamo quando va al vero. No, Carlo io già lo sento, lo accompagno sino al parcheggio, però lo sento molto più basso di Gianni. Gianni è molto più forte perché c'è un'antenna grande. Carlo stai dicendo, però c'è un'antenna piccolina in macchina, capito, Fra? No, si è messo la grande adesso, Carlo. Solo che non avrà e paghissimo. Capo, infatti io come esce da Sassari non lo sento più a Carlo, quando invece a Gianni lo sento ancora, lo sento. Una cosa strana. No, esce più forte Gianni. Capito? Anch'io lo so, a Carlo, quando appena esce da Sassari non lo sento più. Carlo c'ha un baracchinetto in macchina, già ne vanno la radio Siria, che c'è anche l'altro, capito? Per quello lo sentiamo bene. Dove sei già? Gianni, fai la rotatoria. Che è piccolina, a me, devi, mi non pesciti ad abbormi. Capo. Poi è piccola quella rotatoria, no? Lo so, purtroppo è paura, diciamo che per chi non la conosce è brutta, ma uno che la conosce è bellina, già lo credo. Allora te che la? Parli bene già, a me mi senti bene? 5-7, 5-8, 5-5, arrivi molto bene, cazzo, veramente bene. Ma adesso c'è appena di uscire di preparazione, ma la copri tranquillamente già. Va veramente molto molto bene. Gappa gappa, vai bravo. Capo, l'ha coperto la propagazione, l'ha coperto, ma quello è naturale. Vabbè, però già arriva Gianni, già sempre un bel impianto in macchina. Vai Natalino. Ah no, Natalino è al telefono, gappa gappa. Quindi sei già arrivato a Fertilia o no? Gianni, Dromi, già arrivi sempre, non c'è problema, vai bravo. Capo, guida, lascia perdere la radio se che la guida è migliore, peggio, è meglio pensare alla guida che alla radio. Capo, fai bene. E se no basta agganciare un box e vedrai che va meglio. Avanti qua. Vabbè, sempre una rottura di balle. Cazzo, ma così forte questa radio? Porca miseria, c'è uno ce l'ho il microfono. Perché tutto in base modulazione è molto alto, per quello. Tu pensa, secondo che ti sente, noi ormai ti conosciamo, come cambi radio ti conosciamo, ma uno che non ti conosce, anche se ne cambi tre radio, tu sei sempre la stessa modulazione. Vado a bucare i rubi per i te, ne buco i rubi per fare il rugato, vai. Infatti. è per quello, ho capito, è per quello che è bella quella, è bello così, c'hai una timbrica molto molto alta. Chiappa, chiappa, vabbè, va bene che va bene, no? C'è un bel abbinamento, è ben tarato, te l'ho detto, fra, se lo tari bene, che lo metti in linea rettino e dai l'ingresso giusto, qua è una cannonata, anche perché quando c'è inserito con l'amplificatore ti aumenta anche la radio, e quindi va bene. Chiappa, va bene, che te l'ha fatta almeno a te? No, già è una buona cosa. Io sono in cerca di portargliela per lo Smith. A me è tornato com'era lo Smith, ma non so forse è tornato com'era. T'ho ragionato. Tutti nuovi arrivi di Santiago Nove. È un difetto, voi già mi gioco. Sì, da Nove non va, non va più, non va più. Non ho capito perché. Però io ho provato, no, per dire, col K, nello stesso canale, schiaccio la portante e lo strumento sale a 9 più 30, quando girerai così. Mentre invece ricevendo a te e ad altri, tutti 9. Sì, sì, sì, sì, quelle che ti arrivano forte, tutte quelle che ti arrivano forte sono tutti 9, tutti 9. Non va a 9.10, 9.20, nulla. Ti aspetta, e questo va a 9. Galaxy va a 9.30 a dB. Lo so, ma 9.30 arriva solo se ne schiacci la portante con un'altra radio. Invece quando stai ricevendo arrivi tutti nuovi. Ma andava bene, mi. Andava bene, era a posto. Arrivavano tutti col segnale giusto. E si è fatto il boom d'ora. Vabbè, adesso lascio stare così, non la tocco più. Non mi interessa. Dice che è un difetto, blu. Non so che cosa sia, però lascio stare così perché no, non mi interessa lo smettere, ma la radio è perfetta, va bene. Capo, sì, ma anche a me, per quello non me ne frega più di tanto. Io mi baso sui segnali che ho col capo e do lo stesso segnale, non è un problema, se no con un motore te l'ho giusto segnale. Gianni, dove sei arrivato? Santiago 7, Santiago 7, complimenti, a me mi senti bene? Al telefono, Antonino. Santiago 7, adesso sei sceso a 6, comunque l'ultimo segnale. Avanti, fra. Liscio è Gianni? Sì, sei in macchina, non è lineare in macchina. Buonasera a tutti, no, perché mi sovviene quando Carlo va all'aeroporto, lui è molto molto più basso, perdiamo il segnale prima. C'è una differenza, probabilmente Carlo deve mettere un'antenna performante, è tutto lì. Fatta che sono all'ascolto, sto facendo roba, ciao. Ciao Marcolino, entro io e non entri tu. Roba computeresca, documenti, roba retratta, dai, riprendete, vai Franco. Ciao, ciao Marco. Ciao Marco, ciao, ciao, ciao, siamo qua. No, no, no, non lo perdiamo, io non lo perdo mai a Carlo, io accompagno sino al posto dove lui ferma la macchina, mi arriva sempre con un buon segnale. Dipende dalle zone, hai capito? Questa preghiera è abbastanza favorevole. Avanti già, stai parcheggiando, sei già arrivato. Ah, l'hai già accompagnato Marco, sei già rientrato. Marco, lo senti a Gianni che ti ha chiamato? Sì, lo sento, circa 5 e mezzo, 6, ma non posso riprendere, dai, che sto facendo roba di documentazione qua. Roba retratta, roba dimenticata, per carità. Ehi, non so se arrivo, che ci avrò due volte e mezzo in questo baracchino. Capito Claudio, roba di tasse del 2016 dimenticate e poi ci arrivano con la mora, capito, anni dopo, c'è i suoi pasticcioni. Stai attento adesso perché adesso stanno forte con queste cose, lì ci vogliono, capito. Va bene, va bene. Avanti Natali, vai per Gianni, Franco, vedete voi. No, io sto facendo cosa qua, dai, vi ascolto i due. Vai fra, Franco, e traffico ce n'è Gianni, traffico c'è. Cazzo, ma è la base magnetica, vai, ma c'è quella grande, larga. Cazzo 180, come mai? Bisogna andare a 180. Sì, no, 120, va bene, 130, senza 180 di banca mia. Attento, Franco di Sorso. Non è andato, Franco, non c'è più. Sono tutti in stand-by, Marco in stand-by, Franco non ha ripreso, Natalino sta facendo cose. Ma non sai che non lo so, si è smontato stamattina o deve andare stasera, non l'ho sentito. Forse però ha smontato stamattina, ha smontato l'ora di pranzo, E sono appena le 7 già, mi metto a portare Rugani, piano piano, non ti sibili la bressa. Perché c'è l'invece, lo prendo in pieno, capito? Vento che arriva proprio lì dalle parti di Alghero. Per l'invece, spinge parecchio, poi arriva proprio l'Alghero quel vento, capito? Comunque non ti ho perso un attimo, non ti ho perso per niente. Quanto ti arriva lui? Vabbè, quanti watt era quella già? Il S9 stai usando. Quanti watt era? 30? Ma ho detto quanti watt era? 30, una trentina di watt. E io vabbè la macchina. Quanto mi arriva a me, guarda, oscilla sempre da 5, 7, anche 8 ho fatto la macchina. Sì. Qua la media del 5 ogni tanto sale a 6. Ma si spiega, però c'ha qualche watt in più, non è un omologato, cioè non è 4 watt, perciò gli va bene, c'ha un'antenna buona, i watt buoni, grazie. Carlo, quando vai è proprio ai minimi termini. Lo senti in basso Marco? Vabbè, Marco sta usando pochi watt, a me invece mi senti sempre bene. Io sto usando pochi watt, ho detto, a me mi senti sempre bene invece. Sì, io sono 2,5, 3 modulati, 3 modulati. Marco sta usando 3 watt, Gianni, 3 watt. Modulati. Modulati, 3 watt modulati, senza modulare 2. A cazzo, tutti in quel RPC, di macchina non accendete i watt invece di dirli curati. Accendete, accendete, fatevi ascoltare. Vabbè, là, oggi c'ho questo, ero incasinato con questa roba a scartuffiere. Bene, riprendete pure, bianco per me. Non riprendo, Io sto aspettando che rientri mia figlia o mia moglie, sono stia a fare la spesa, a fare il compra, e poi stacco e vado dalla mamma a scaricare la macchina, c'è l'acqua da scaricare, tutte cose. Io te l'ho detto già, dovevo uscire io, invece ha preferito uscire mia moglie. Capito, con i dai e allora sono andati loro, se no sei riuscito io a prendere anche una boccata d'aria. Già la città si vede pure lunghi, anche qua c'è un bel freschetto, però non sei riuscito a fare due passi, capito, sono tutto il giorno, vabbè già sto facendo, Io intanto mi metto a fare, adesso mi dopo do la seconda passata d'acqua verso le 8, 7 e mezza, 8, al giardino. E poi basta, poi boh, non fatevi nulla. Va bene, 5-5, 5-6, ottima modulazione. Buonasera. Ciao, Franco Binario. Allora? Ragazzi, salta solo a te, con chi sei? Sono con Gianni Doppio Room che sta rientrando dal Alghero in macchina, che era all'aeroporto a accompagnare il figlio. Non lo senti? Credo che per me è tutta la parte negativa. Gianni, ci sei? Certo che c'è il bip, non ho capito. Ha detto che lui già ti sente però, capito Fran? Lui già ti sente, sei tu che non senti a lui. Io sto dando qualcosina in più, capito Fran? Mi sente per quello. Bene, mi ascolti Fran, sì, col saltoletto. Sì, forte, radio abbondante. Radio abbondante, com'è quella cosa? Santiago non ti vedo, radio non ti sento. Non sa com'è il segnale qua, sono tutti bassi, però volevo conto è la radio, arrivare bene di radio. Anch'io ti arrivo basso, Fra. Anche tu arrivi fino al cuore, come diceva Paoletto, al cuore. Al cuore è Ramon. Ciao Natali. Ciao bella. Ma ho detto questo salto mecco, e ce l'ho uno per me più oltre, ce l'ho uno, poco fa ce l'avevo a due. E mi hai fatto mettere uno, se abbasso ancora non mi intendi più. Niente, l'ho sentito, cava, va bene. Vabbè Gianni, ehi qualche ostacolo, tutta la casa c'ha, se ne va a finestra, è già troppo che ci sentiamo, dai. Stai rientrando? Vabbè, ce n'era movimento in aeroporto. Aspetta, mi stanno chiamando al telefono, riprendi Claudio. Ciao Gianni, sono Natalino. Ciao Carlo. Ciao, buonasera. Natalino, Gianni, Doppio Room e Gianni, mi sa, Lu Profeta c'era. Buonasera a tutti comunque. Dove sei Gianni? Qua già arrivi forte. Ho finito alle 16.30 oggi. Sono rientrato a casa alle 17 e niente, adesso sono casalingo. Domani e dopodomani c'ho due mattine e poi libero il riposo. Piano piano ce la stiamo zappando. Ciao Natali, come va? Ehi, salva Carlo. E beh, tu tutto a posto? E adesso ho acceso, ho detto vediamo se c'è qualcuno. Ho visto che c'era un po' di comunicazione. Caspita Gianni, lo sento bene quando è in macchina, ovunque vada, lo tiro fuori bene. Santiago 8 qua adesso mi stava arrivando, radio 5. Sì, per forza, con quella posizione, quell'antenna, se non lo senti ci devi buttare tutto. Gianni, quanti watt stai usando in uscita? Io. Via. Io è che non ce li ho, se no forse ci arriverei anch'io a arrivare bene così. Io con quella radiolina della macchina massimo fa 8 watt in AM, capito? Cava. E anche l'antenna vuol dire molto, Carlo. Ho messo l'antenna, anche quella più performante, ce l'ho da tanti anni giù, e ho trovato il modo di lasciarla anche smontata in macchina e quindi la uso, perché in città arrivo bene dappertutto, ma da poco ho fatto una prova con Roberto e da Sassari, lui mi ha seguito sino a quasi l'aeroporto, però era un giorno dove non c'era propagazione, quindi poco QRM, capito? A volte c'è quel QRM fastidioso, molto alto, e una volta che arrivo alla fine delle quattro corsie non mi si sente più. Scusate se riprendo io, però devo scaricare la macchina, ci sentiamo dopo, ciao Carlo. Ciao Claudio, ci sentiamo dopo. A dopo Claudio. Sì, già ti sei, io ti sentivo sino a giù all'aeroporto, vi sentivo chiacchierando, solo che c'era troppo QRM, capito, e non lo oltrepassavo io perché era una soglia molto alta, però vabbè, piano piano già aggiusterò anche quella, dai, se mi devo organizzare un pochettino in macchina. Performate, vedrai che arrivi bene. Esatto, è che sembra così quando rientri, sei stanco molte volte e quindi c'è tante altre cose da fare, la famiglia eccetera, quindi a volte mi rimane poco tempo per l'hobby, diciamo. Lo so, prima il dovere e poi il piacere, diceva quello. Esatto, ma piano piano la tua radio l'ho messa a posto. Lo so, ho visto anche il filmato. Lo so, perché l'avevo mandato a Claudio e insomma forse a qualcun altro, e come l'ho ritirata poi non ho avuto neanche modo di provarla lo stesso, perché devo trovare un deviatore d'antenna e domani ci faccio un salto e vedo se lo trovo, tanto costa 2 citti, in maniera tale che così posso usare o una o l'altra, capito? E cosa le ha cambiato Carlo per una soddisfazione mia? Allora, cambiato i due finali, tutte e due, ha messo due finali della Mitsubishi originali che avevano una certa numerazione, 2312, qualcosa, 45A, una cosa del genere, adesso non ricordo bene, perché dicevano cambiati tutti e due insieme, capito? Perché pare che uno dei due che c'erano era uno diverso dall'altro, dice che la radio comunque era stata manipolata parecchio, infatti c'era un trimmer, non so di che cosa, tutto aperto, e quello la faceva lavorare male lo stesso, e ha trovato molte cose, insomma, che non andavano bene. Quindi hai pagato tanto? No, assolutamente no, capito, 20 euro, prezzo modestissimo. Va bene, meglio così Carla, godendo. Infatti Massimiliano me l'aveva detto, guarda, dice, una persona così, dice, è difficile trovarla, dice, non è un tecnico specializzato, lui ha fatto tutto da autodidatta, capito? A vederlo mi aveva detto, dice, tu non gli dai niente, però poi si mette e ti aggiusta cose che sono state rifiutate da, anche da laboratori di radiotecnici anche diciamo qualificati, capito? C'è molto QRM da propagazione, Carlo, ti ho copiato le live. C'è molto QRM da... Sì, già ci sono, già. Ehi, sempre bene, mi ascolti? Sì, signore. Andare, adesso ti ascolto anch'io, dai. Ma c'era QRM di propagazione, non so se se lo portava presso Carlo, come parlava lui, c'era questo QRM di... Ma adesso penso di no, perché avevo i watt, un watt e mezzo avevo, prova, adesso sono con 8. Ah, adesso ti sento bene. Sì, sì, sì, perché ero con pochi watt, capito, non mi ero accorto che era girato il potenziometro. E io sono con un watt e mezzo. E lì ce n'è più di uno. Ciao Carlo, ciao tu. Ma basta, che buchi la radio qua. Ti chiudo questo blocco, no? 5-6 watt, non di più, l'ho appena acceso, quindi. E con il microfono normale. Ma tu sei vicino vicino a casa, dai, poco più lontano di Roberto, più o meno, dai, siamo là, ma qua mi arrivi fortissimo. Il pugno è un briaco fragico. Ah, beh, Natalie, barrato. Barrato sia già. Ciao Antonè. Ciao Natalie, saluto di me sentito. Poi, sto per entrando, Rita. Girella eri, Antonè. Ah, quello che ho, sono fatto un lavoro, un impianto d'antenna di parabola, ma ci sono stati dei problemi tra ricevitore, parabola che è in mezzo alla pianta, eccetera, eccetera, quindi è un casino. Adesso ci vanno domani verso le 10, vedo di sollevare un po' e vedere un po' cosa diavolo c'ha. Magari se parabola va orientata bene, capito? Ci sono quegli strumentini, se no andare così manuale è difficile. Ah, strumentino ce l'ho, le due strumentini. Il problema è che quando lo strumentino tocca, cioè, lo metti di fronte all'albero, segna, hai capito? Ti fa riflesso, quindi ti falsa, il discorso è quello lì. Capito, il problema degli alberi è che disturbano parecchio, anch'io ce l'ho avuto tanti anni, poi per fortuna ne hanno tagliato uno che era arrivato quasi al tetto e io sono in un palazzo di 5 piani, era una sofora cresciuta nell'aiuola, era diventata enorme, addirittura le radici avevano sollevato i pavimenti in alcuni garage, capito, talmente era andato in profondità e l'abbiamo dovuto tagliare e disturbava anche per le antenne chi le aveva sul terrazzino. Oh Carlo! Dimmi. Fra quelli sono, avanti fra. Cappa, ciao! Come sta uscendo questo radio? 9, radio 5 da parte mia, Carlo non lo so, avanti fra. Volevo dire, avanti Carlo. Anche a me mi arrivi Santiago 9, radio 5, fra. La voce è un pochettino diversa dal solito, forse stai usando anche radio, microfono diverso. Cappa, no, è sempre il Galaxy con l'MBZ5. No, stavo provando perché poco fa mi stava mancando la corrente, mi si è abbassata, mi si è spenta due volte. Ma qua già mi arrivi forte, capito? Santiago 9 anche a me, radio 5, bella, chiara, però un pochettino diversa dal solito, capito? Come diversa? In quale senso? Sembra un po' più rauca come radio, è forte, è chiara, ma prima mi ricordo che era più chiara la tua voce. Capo, vabbè, sono un po' rauco io, Ma vabbè, allora se è un problema di salute è naturale, dai, non è niente, la radio già sta andando bene, fra. Capo, no, solo per quel motivo lì, c'era qualcosa che, infatti ho detto, ma la radio è partita, invece no, perché stavo modulando, e tutto a un colpo si è abbassato il frequenzimetro, i numeri, e poi si è spento. Magari qualche sbalzo di tensione ha fatto quel giochetto lì. È probabile, però vedo che sta funzionando bene adesso vediamo. E va bene, con quanti quanti watt stai uscendo adesso? Beh, adesso dovrebbero essere 7 watt così, come adesso. Sì, sì, già arrivi bene con 7 watt a voglia. Sei a sorso tu, quindi già siamo abbastanza vicino, io tutta quella zona ce l'ho aperta. Capa, sì, ma si vede anche tu arrivi benissimo. Claudio è andato a scaricare materiale, non so, dalla macchina, e poi non so chi altri ci fosse. Capo, dai, scusate, ma io devo mollare, che sono entrato solo per vedere se stava funzionando bene questa radio, che adesso me la metto nel suo posto di nuovo. Già sta andando bene, 9 Radio 5, Franco. Cappa, grazie Natali. Allora via sta andando. Attimo, si è scusata direttamente. Prima si è abbagliato il frequenzimetro e poi si è scusata. Sì, già ti ho sentito, dai. Credo che arriva bene, sia di radio che di segnale. Ok, meglio così. Oh, riprendete voi che io devo mettere a posto qua. Ci sentiamo dopo. Bene Franco, già siamo qua. Vai Antonè. Capa, mi dai un secondo che sto facendo un lavoretto adesso. Poi già ti, al limite già li chiamo. Di qua sono a 27, non c'è problema. Ti arrivo subito. Yeah, va bene, siamo qua, io e Natalino allora. Natali, piovendo ancora sta. Veramente non me ne sono accorto se stava piovendo. Perché io sono qua dentro e non ne sento pioggia. O prima era qualche goccia, non è che era pioggia di quella qua sporca, capito? Adesso non vogliono neanche a lavare più le macchine perché c'è il problema della carenza d'acqua, quindi dice che vogliono fare tutti i sindaci, non so, una sorta di decreto nazionale per lo spreco, perché siamo in piena siccità, diciamo, e quindi se piove fango si sporca la macchina e rimane così. Quelli che usano i rifornitori sono dal pozzetto che ce l'hanno e io lo so per esperienza perché nella ditta dove ero io c'era il lavaggio e ci avevano il pozzetto a parte. Ho capito, chi ce l'ha però e chi non ce l'ha già deve chiudere. Un casino. Ne stanno succedendo troppe di cose, che anche tu non ti l'ha mandata. Davvero, le cavallette a proposito di cose brutte, dice che sono arrivate nel Goceano adesso, nella zona di Bono, insomma quella zona lì, stanno mangiando quanto c'è, alla fine non trovano più niente, si attaccano i pochi vigneti che ci sono in quelle zone. Quelle distruggono tutto. Io non c'è altra cosa. Ci voleva anche questo in Sardegna, incendi, siccità, cavallette, poi pandemia, insomma di tutto, la benzina che ha lo stesso prezzo del diesel a 2 euro, e i portafogli nostri che si svuotano sempre di più. Vabbè dai, speriamo che di trovare tempi migliori, dai, perché peggio di così non può andare. Mi sei dimenticato la guerra. Vabbè, ma era sottinteso con l'aumento della benzina, tanto è colpa loro, questo perché sia l'Italia che tutta Europa dipendevano troppo dalla Russia, sia per il gas che per i combustibili diversi, capito? Invece avessero diversificato da altre zone non saremmo stati a questo punto. Adesso prima che ristabiliscano le riserve ce ne passerà di mesi, forse ci vorrà anche qualche anno. Quindi questi prezzi chissà per quanto durano così alti. E allora, noi ci siamo basati su quello e adesso, ma ce ne sono altre di nazioni che hanno il gas, tipo la Germania, eccetera, eccetera, che se lo possono fornire. Speriamo dai paesi anche della fascia nordafricana, diciamo Algeria, lì quei paesi lì ne hanno anche in abbondanza. Diciamo che c'è qualcuno che ne sta approfittando anche della storia della guerra per aumentare. Ma quello poco ma sicuro, gli speculatori ci sono sempre, sia nelle borse ma sia anche a livello di questi scambi di petrolio. eccetera, perché anche le tariffe aeree avessero, dovrebbero aumentare, perché il combustibile avio lo stesso è aumentato di brutto, mi dicevano. Figurati, che cos'è? Kerosene mettono gli aerei, no? Sì, esatto, e tu pensa che da noi ci sono 4 autobotti e c'ha la ditta Fancillo, no? Che porta quel combustibile lì, e praticamente loro portano da giù da Cagliari, e ci sono queste quattro autocisterne che tutti i giorni si alternano, capito? Ne arrivano due insieme e due tornano indietro, due insieme, tutti i giorni, adesso per tutta l'estate così, fanno su e giù. Cavolo! E quanti viaggi fanno? Viaggiano senza soste. Tu pensa che qualche giorno fa che sono andato a Borore per ritirare quella radio, e ho trovato una di quelle autobotti che era fermo, l'autista, riposandosi lì verso dopo Macomer, diciamo, e l'ho riconosciuto perché passano quasi tutti i giorni da noi, capito? E addirittura quelli che vanno poi la sera tardi dormono lì, gli paga, penso, la pensione, lì la ditta Fancillo, e ripartono la mattina presto e arrivano intorno a mezzogiorno all'Alghero a scaricare. Scaricano dentro che ci sono i serbatoi, no? Perché poi viene ripescata e gli aerei vengono approvvigionati con delle autobotti particolari, capito? Che hanno delle cannette fatte apposta che per i serbatoi degli aeromobili, capito? Ho capito. È tutta una prassi, da. Comunque se si che ce n'è, si va avanti, e poi cosa si fa? Le macchine elettriche. Il problema sarà quello, noi che siamo in un'isola, se si fermano gli aerei, che non c'è più combustibile, forse con le navi riusciremo a viaggiare, ma sarà difficile. Sì, sempre il combustibile pure per le navi ci vuole, anche loro usano, mi pare. Ho capito, già ho capito. E dove sei arrivato? No, sono a Latte Dolce adesso, insomma. Sono arrivando verso vicino a casa. Sì, il segnale adesso è anche più forte. Adesso sei fondo scala, A Latte Dolce sono. Arrivi fortissimo. Esattamente alla chiesa del Latte Dolce. In questo momento sto girando. Allora, tra 5 minuti sei a casa tua. Sì. Ma magari mi fermo 5 minuti ancora per parlare, ma ne vado un po' sulla strada nuova e mi metto a parlare da lì, così almeno faccio 4 chiacchiere, non accendo a casa e risparmio corrente. Se vai, intanto puoi andare anche con pochi watt, anche se spegni il motore la batteria già tiene, se non colleghi niente. No, non c'ho nulla da collegare in macchina, c'ho solo l'apparato e basta. Questo qui un po' male ti viene a collegare qualcosa, perché già esce con i watt sui. Sì, infatti no, già è una bella radio quella che hai in macchina. Te già l'hai vista, dai. Vabbè, adesso ti sei fatto anche la stazione base a casa, dai. Sei contento? Sì, adesso la devo collegare in parallelo, capito? Così posso andare con una e con l'altra. Ti metti il commutatore d'antenna, invece che l'antenna te lo fai per apparato, ma è la stessa cosa, ti commuta anche. Sì, però devo dissaldare lo spinotto perché mi passa dentro il mobile, quindi lo devo tirare fuori, risaldare, poi collegare al commutatore, poi dal commutatore mi faccio due discese, capito? E il commutatore lo fisserò, capito? In tale che sia stabile, e a seconda di quello che voglio usare, già lo sai, giri e buonanotte. Non prendere di quelli ZG che non servono. Non prendere quello ZG, che non serve a nulla. No, mi sa è blu metallizzato di colore questo, ma non è ZG. Dove lo stai prendendo? O se lo prendo, mi sa che lo ordino su Amazon, costa una fesseria di 17 euro, una cosa del genere. Quante ricombo da radio? Per due uscite, un ingresso e due uscite. Ah, vabbè, se per te va bene, se no te lo prendi un po' più grande. No, già va bene così, per due va benissimo. Ma vediamo, Natalie, mi dicevi di non prendere ZG così? Non servono, occhio che ti fai l'anno. No, non ne ho preso ZG. ZG c'ho solo il microfono, l'MB più 4. No, ma i commutatori vanno in corso. corto, io l'ho comprato nuovo e andava in corto, non capivo cos'era ed era il commutatore, ho provato a attaccare l'antenna diretta ed era quello lì. E allora sono costruiti male, magari hanno difetto proprio di costruzione. Grazie per avermelo detto, ma già ero orientato su un'altra cosa comunque. Se devi prendere commutatori MFG oppure Daiwa, non piglia altro. Via Natalia, adesso già me li guardo. Greco, avanti. Caffa, Massimiliano, buonasera, come mi ascoltate? Benissimo Massimiliano, ma hai degli uccellini vicino a te? Già lo so che c'ho la calopsite, mi sta rompendo la scatola. Sente tutto, anche il sottofondo, qua Super 5. Gava gava, va bene. Quello è un maschio, amico. No, la femminuccia. Se canta così è maschio. Ti so vedere, è femmina. Vabbè, vabbè. E fatti che su me la femmina, ma il maschio solo. L'importante è che canti qualcuno, dai. Poi basta guardare una cosa, guardare le guance. Se c'è l'arancione forte è maschio, se rimane un po' sbiadito è femmina. Eia, te lo sto dicendo che è femminuccia. E ce li ha un po' sbiadito. E allora è mara. Massimiliano avevi ragione. Modestissimo, mi ha preso 20 euro. Cioè, te l'ho detto. È un amico quello. Sì, sì, l'ho ringraziato, infatti. Anche perché è stato abbastanza, diciamo, veloce, dai, a parte bisognava avere pazienza per aspettare quei pezzi là, però poi già è stato veloce, l'ha provata, ha detto che era stato, me lo dicevo prima Gianni, che era stata un po' manipolata, ha chiuso alcuni trimmer che dice erano tutti aperti e quindi la radio era tutta in distorsione, evidentemente ha avuto anche il tempo di provare tutte queste cose, l'ha rimessa a posto, io l'ho sentita da lui, la radio l'abbiamo provata insieme e usciva perfettamente. No, già lavora bene, no. Però siccome c'è una persona adesso che sta ascoltando, voglio dire che la radio io la porto dove voglio, capito? E se che li fa una banca di fatti due, non era per voi questo messaggio, ma comunque se sta ascoltando, chi deve ascoltare? Ah, va bene, va bene. No, persona deliziosa, dai, gentile, e insomma quando gli ho spiegato le cose così, e come mi aveva detto Gianni, dice la radio aveva questo problema, lui subito l'ha verificata, si è accorto e insomma è stato attento, ha fatto un buon lavoro. Carlo, so già tutto perché ci siamo sentiti, capito? Ci siamo sentiti per questo, capisco, questo è il mio, l'ho ritirato stasera. Com'è Gianni? Tu che sei orecchio fino. Cosa? Non ho capito. Questa qua che cosa è? Il Galaxy. Eia, questo è il Galaxy, come va? A posto? Una bomba e va benissimo. Bella la radio, forte e di lusso. Kappa, là, mi l'ho appena collegata. Tutto a posto, là. Quindi era quello il problema, era